Fine. Fine. Fine. Fine. Io non scrivo testi in cui possiate rivedervi. Ho nervi troppo tesi per pensarvi quando scrivo. Non scrivo per baciarvi le mani, adularvi con i miei fatti personali più banali. Traccio il mio domani a guardarmi sul randagio come i cani. Già dalla barba in viso, sulla carta non imprimo il mio sorriso, ma il mio riso cinico che è il morbo estatico di cui mi cibo. Non scrivo per cullarvi mentre vi addormentate, ma scrivo nelle notti d'estate in cui state sognando calmi, caldi come i sogni che spezzate quando li dimenticate. Nel percorso che vi porta fino alla maturità, i miei versi sono saldi all'ideale del poeta che cerca la verità. Non scrivo per cercare comprensione, ma scrivo perché scrivere l'azione che trovate se cercate di salvarvi.